per noi, nel senso che poi se quando parliamo di spuntino dell'adulto parliamo del toast al prosciutto, dello yogurt, della frutta inserita a metà giornata, ossia di tutte cose che vanno, se dobbiamo dare un dato sulle calorie, che non debbono superare di tanto le 200 calorie o debbono stare lì intorno. Poi ogni tanto vediamo, che ne so, quelli che si fanno quei bei panini tonno e pomodoro che sembrano così salutari, ma che in realtà possono arrivare a superare le 500 calorie e allora non va più bene, o gli happy hour usati come spuntini e che non sono proprio lo spuntino tradizionale, non riusciamo mai a quantificare, quindi questo è il problema. Quindi, dottor Fatati, spuntini sì, possiamo scegliere sicuramente la frutta, questa è la stagione migliore, yogurt. Yogurt, sicuramente dei buoni frullati, sicuramente la cosa diciamo più tradizionale, che è il toast al prosciutto, sicuramente è sempre salutare. Dottor Fatati, un bel gelato? Il gelato è sicuramente un alimento dal punto di vista nutrizionale, soprattutto le tipologie degli ultimi gelati, quelli che hanno la cialde, cioè hanno una tipologia veramente adatta al nostro metabolismo, però la quantità ci può trarre in inganno, perché il gelato è un qualcosa che è molto rapido, un alimento molto rapido da consumare, e in questa rapidità sta la sua forza e la sua debolezza, perché riusciamo a consumarlo rapidamente, ma rapidamente riusciamo anche a consumare grandi quantitativi, quindi bisogna porre un po' di attenzione, ma sicuramente è un ottimo alimento. Dottor Fatati, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. E adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi tornate pronti e preparati per il corso di sensoterapia. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo di nuovo insieme. Io vi stavo aspettando perché oggi siamo giunti al nostro ultimo appuntamento del corso di sensoterapia. In linea con noi la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati. Buongiorno professoressa Graziottin, bentornata. Buongiorno a voi, grazie. È un po' emozionata, siamo all'ultima puntata del nostro viaggio. Diciamo che mi è piaciuto molto questo spazio, perché in realtà la maniera lieve che caratterizza l'estate, però ci ha consentito di parlare, credo di poter dire in maniera non ovvia, di questi sensi e anche delle loro basi profonde neurobiologiche, e del fatto soprattutto che un uso affettuoso e attento dei nostri sensi possa regalarci molta felicità altrimenti trascurata, e questa è la cosa, forse il messaggio più, spero, più utile anche per gli ascoltatori. E poi soprattutto nel corso di queste puntate lei ha dedicato particolare attenzione ai bambini, e magari noi da adulti, quando magari rendendoci conto che questa sensualità, nel senso di proprio percezione dei nostri sensi, l'abbiamo persa, non l'abbiamo abbastanza curata, ecco, questo potrebbe essere un momento per fare mente locale e invece insegnare ai nostri figli a usare i cinque sensi in modo proprio pieno, giusto professoressa? Assolutamente, e il modo migliore per insegnare, come tutti sanno, l'esempio. E sull'udito, che è il senso di oggi, io vorrei soffermarmi sulla voce, non tanto diciamo sulla musica, sulla quale oltretutto lei nella trasmissione ha già parlato molto bene con altri esperti, ma sulla voce. La musica migliore per ognuno di noi è la voce che ci ama, la voce che ci parla, morbida, carezzevole, con un tono di voce basso, con il respiro lento, con quell'atteggiamento interiore di disponibilità che è la carezza più bella che una voce ci possa fare. E quindi, di nuovo, condividere insieme l'importanza e l'uso che noi possiamo fare della voce, di una voce affettuosa, di una voce che ci dia benessere, appunto, nelle diverse età della vita. Pensiamo ai bambini quando riconoscono la voce della mamma, del papà, delle persone che a loro sono più care, anche del fratellino, e poi pensiamo anche alla stessa frase con un tono di voce differente assume tutto un altro significato. D'altra parte la voce tradisce anche i nostri stati d'animo, se siamo emozionati, se siamo tristi, possiamo mascherare in qualche modo un tono di voce diverso, ma alla fine chi ci conosce sa che dentro di noi si agita qualcosa. Addirittura anche chi non ci conosce, perché di nuovo noi rispondiamo in maniera profonda alla parte non verbale della parola. In altre parole, noi abbiamo la versione semantica, quello che noi diciamo, la sequenza di parole che noi utilizziamo, ma poi nella comunicazione interpersonale la cosa più importante è il feeling tone, il tono emotivo con cui noi accompagniamo le parole, e nella comunicazione il tono emotivo vince alla distanza e vince tantissimo, per cui, e questo ci consente sia di capire qual è il livello della conversazione, anche se stanno parlando in un'altra lingua, per esempio, e soprattutto di comprendere l'impatto che la comunicazione può avere solo sintonizzandoci sull'aspetto emotivo della stessa. Allora, per il bambino, per esempio, alcuni psicanalisti come Didier Angier parlavano di bagno di dolci parole. Che cosa significa? Che noi con la voce possiamo letteralmente fare un bagnetto al bambino, in altre parole circondarlo di parole carezzevoli, ma la cosa importante non è solo quello che noi diciamo, ma come dicevo, il tono, la voce con cui noi diciamo. Una voce calma che legga una fiaba, per esempio, ha una capacità straordinaria di placare l'ansia che il bambino ha prima di entrare nel sonno, che è un momento ansiogeno per quasi tutti i bambini. Ed ecco che allora il raccontare una fiaba, non occorre che sia letta, anche una fiaba che noi ricordiamo, con la voce giusta, con la voce lenta, cioè prendendoci il tempo, quei 10 minuti, quel quarto d'ora, quella mezz'ora per stare col bambino, almeno d'estate, sarebbe bene farlo tutto l'anno, ecco che questa voce che accarezza e accompagna nel sonno ha uno straordinario potere calmante, perché di nuovo regala al bambino un'emozione complessa che dà presenza, amore, significato, cioè io mi trovo il tempo per stare con te nonostante lavori, debba correre, fare le cose, preparare il cibo per il giorno dopo, e soprattutto che gli dice ti voglio bene. Quando noi raccontiamo le fiabe al bambino, addirittura mettiamo in atto una comunicazione molto complessa e nello stesso tempo molto semplice. In genere tutte le mamme e tutti i papà sanno che un bambino a 3 anni, a 4, poi a 5, tende a chiedere sempre la stessa fiaba. È molto importante assecondare questo desiderio, perché significa che quel bambino in quella fiaba trova una risposta profonda agli interrogativi che lo agitano e ad alcune angosce che magari ha più forti in quel periodo. Se poi quella fiaba viene raccontata, come dicevo, col tono, con l'affettuosità, con la tenerezza, con la morbidezza nella voce, ecco che noi regaliamo al bambino un momento, una pausa nella giornata indimenticabile, e quel tempo veramente di alta qualità può sopperire anche, non completamente, ma comunque molto bene, anche delle assenze necessarie durante la giornata. Non solo, ma il parlare con una voce attenta al tono, alla morbidezza, all'accarezzare con le parole, ha anche un effetto straordinario nella mamma o nel papà che racconta la fiaba, perché dalla concitazione del giorno anche il genitore, per raccontare la fiaba con quel tono, deve mettere un po' a posto, certo, deve cambiare registro. In un altro modo, deve stare seduto con calma, respirare a fondo, e a questo punto anche il papà o la mamma si regalano un'oasi di tenerezza. Ecco che allora questo gesto, che è di generosità verso il proprio figlio, diventa anche un gesto di attenzione verso se stessi. Tutte le volte in cui noi attiviamo un meccanismo di ricompensa, cioè un meccanismo di gratificazione fisica ma anche emotiva, questo ci porta a ripetere quel comportamento, e questo è il modo sano per volersi bene quando il piacere è condiviso, quando il benessere è condiviso, ed è quindi per tutti e due. Abbiamo parlato di udito, l'abbiamo legato al suono della voce, per esplorare un po' questo meraviglioso strumento che abbiamo a disposizione con cui comunichiamo le nostre emozioni. L'estate però per molti è un'occasione anche di silenzio, di pausa. Il nostro udito ha fame di quiete, di silenzio, che ha anche un suo suono, che inevitabilmente fa scattare delle corde del nostro benessere, la pace. Quanto è invece rumoroso il silenzio quando dentro di noi si agita l'ansia, le preoccupazioni, non siamo a posto con noi stessi. Mi piacerebbe esplorare questa dimensione del silenzio parlando proprio di udito. È molto giusta questa cosa, è anche molto profonda. Lei dice bene, il silenzio diventa rumoroso, diventa intollerabile addirittura, angosciante, quando diventa lo specchio dei rumori interni che noi abbiamo, del rumore di fondo che non riusciamo a decantare, che non riusciamo a zittire all'interno della nostra mente. E di converso il silenzio, che poi in realtà non è mai un silenzio assoluto, quando per esempio siamo nel bosco, siamo in riva al mare, siamo in una notte stellata in un posto non concitato, siamo nel deserto, il deserto regala dei silenzi straordinari per esempio. Ecco, noi possiamo esplorare davvero la nostra interiorità e un modo diverso di ascoltare la musica del mondo, che è una musica sommessa, è una musica oggi purtroppo molto oltraggiata da tutti i rumori urbani, ma anche dai rumori degli aerei, tutti i vari mezzi di trasporto oltraggiano la musica del mondo. Ecco che allora di nuovo il riconsentirci un ascolto selettivo, cercando anche delle vacanze, non sempre muovendosi con tutto il carrozzone, non andando sempre nei posti dove ritroviamo esattamente le stesse liturgie o liturgie di poco modificate rispetto alla vita urbana, ma proprio ritrovando quella che è, come dicevo, la musica del mondo, la musica della terra, la musica degli insetti, la musica dei fiori, la musica del vento, tutti questi rumori primari che sono scritti tra l'altro nella memoria profonda della nostra specie, hanno di nuovo uno straordinario profondo, proprio potere calmante. Perché ci piace così tanto stare in riva al mare e si dice farci cullare dalle onde? Perché quello è probabilmente una memoria profonda che viene riattivata. Se poi di nuovo lo condividiamo con qualcuno che amiamo, ecco che questo suono di nuovo ha un grandissimo potere rigenerante. Di converso vorrei anche dedicare un po' di attenzione a quanto invece l'udito possa ferirci profondamente quando la voce diventa secca, violenta, urlante. Professoressa, un grazie di cuore a cinque sensi. Grazie infinite a voi anche per questa opportunità di felicità condivisa. Grazie. E per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta Carbone, come sempre vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.